Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il giorno seguente, a ricreazione, la maestra mi fece cenno di restare al mio posto e solo dopo che l'intero gruppo raggiunse l'uscita mi disse di recarmi alla cattedra, portando le matite colorate. Benché un po' sorpreso, ubbidì senza fiatare. Ciao, sono Mario, ho 57 anni, vivo a Milano e faccio il giornalista tecnico freelance. Ho la fortuna di avere attorno a me diverse persone che arricchiscono la mia vita, un figlio, una compagna, fratelli e sorelle, diversi amici. Maestri, professori, insegnanti di ogni tipo, di scherma, di cucito, di cucina, di un'altra roba con la Q, di cucito, cucina, no, con la Q, con la CU intendevo, di cucito, di cucina, di qualunque cosa, oggi è la puntata per voi. Segnatevi questo numero, 800240024, chiamate in diretta. Oggi vi diamo la possibilità di liberarvi di questo, parlando di questo argomento. C'è una lezione che quando voi la fate, proprio godete come dei ricci. Docenti universitari, insegnanti di karate, 800240024. Per esempio, la lezione preferita da Tiziano Bonini è la puntata su, me l'hai detto prima, la guerra dei mondi di Orson Welles. Io quando facevo l'insegnante di vela adoravo la lezione della presa di gavitello. Arrivi di bolina, allarghi un po', poi vai al vento, arrivi dritto sul gavitello, non troppo lungo, non troppo corto. Se sbagli, hai acqua sotto vento, allarghi e te ne vai. 800240024. Qualsiasi cosa abbiate insegnato, anche un maestro elementare, professore delle medie, professore superiori, universitario, la lezione che preferite in assoluto, che quando la raccontate, quando la spiegate, godete come dei pazzi, ce la raccontate in diretta. 800240024. Noi parliamo di professori, parliamo di insegnanti, ma nella storia di Mario si parla soprattutto di maestri. Chissà perché ci ricordiamo sempre nome e cognome della maestra della prima elementare e non quello dell'ultimo insegnante di italiano o matematica avuta alle superiori. Sono degli scherzi della memoria che talvolta sembra proprio divertirsi a cancellare dal nostro cervello il cibo in fase di digestione giù nello stomaco, lasciando però integra l'immagine di tutte le portate servite durante il pranzo di nozze del fratello maggiore, diventato nel frattempo quasi nonno. La mia maestra si chiamava Maddalena Savioli. Era giovane, carina, ma sopra ogni cosa era buona. Mi bastarono pochi giorni per capire che con lei stare lontano da casa forse non sarebbe stato così brutto come all'asilo con le suore troppo severe per i miei gusti. Coi suoi modi garbati mi aveva conquistato guidandomi sulla strada del sapere, dalla A di ape, la B di banana, fino alla Z di zebra ovviamente. Quasi da subito le ho voluto bene. La sentivo talmente vicina che mi veniva spontaneo andare a mostrarle un indumento nuovo cucito per me da mia madre, la camicia, i pantaloncini, oppure la blusa nera, obbligatoria in quei primi anni 60, insieme al colletto bianco, al fiocco azzurro e al distintivo di plastica con la sagoma forata del numero della classe che si frequentava. Chino sul banco di legno scuro a due posti, con il piano inclinato, percepivo il suo sguardo rassicurante mentre intingevo con cura il pennino della cannuccia nel calamaio, per poi scrivere in bella grafia le parole del dettato, subito coperte con la carta assorbente in modo da accelerarne l'asciugatura. Il mio lavoro consiste nel girare l'Italia e visitare aziende che si occupano di lavorazioni meccaniche. In pratica, attraverso interviste raccolgo delle informazioni che mi servono per raccontare la loro storia, come sono nate, cosa fanno di preciso, dove vanno i loro prodotti e che tecnologie usano. Insomma, in qualche modo racconto delle storie anche per quanto riguarda il mio lavoro. Un mattino ci chiese di arricchire il compito appena terminato con un disegno che ne richiamasse i contenuti. Io allora sollevai da sotto il banco la voluminosa e sciupata cartella di cuoio ereditata da chissà chi e ci ficcai dentro la testa e il braccio, cominciando a rovistare fra il libro, il quaderno a quadretti, la merenda, alla ricerca dei 6 pastelli colorati marca Giotto formato Mignon, regalo di mio cugino Peppino. Nell'eseguire quell'operazione, complicata dall'esigua lunghezza delle matite colorate, già diverse volte passate fra le grinfie del temperino, fui attratto da un luccichio, proveniente da una grande scatola di latta rossa, poco distante, nella quale si specchiavano addirittura i lampadari a palla penzolanti dal soffitto. Strabuzzai gli occhi nel rendermi conto di che cosa fosse. La più completa confezione di matite colorate mai vista, targata Carandash. 24 altissimi pastelli, uno diverso dall'altro, così stupendi insieme da far impallidire l'arcobaleno. E tutti di proprietà dell'odioso compagno dietro di me, lo stesso che mi sfotteva chiamandomi Terun. Ancora scioccato per l'incredibile visione, tornai alla mia cruda realtà, costituita da 6 mozziconi spuntati, che non ne volevano sapere di farsi trovare fra le pieghe del fondo di quell'ammasso di pelle logora. E poi, quando finalmente pescai l'ultimo, nell'affiancarlo agli altri, incontrai gli occhi della maestra che aveva seguito l'intera scena. Al rosso vergogna che in un lampo mi dipinse il volto, lei rispose con un'affettuosa carezza e un sorriso. La mia carriera scolastica è proseguita poi naturalmente con le scuole medie, dove dal pennino, la penna col pennino, sono passato finalmente alla penna biro, e poi alle scuole superiori ho frequentato l'istituto tecnico, specializzazione meccanica, e la meccanica è rimasta sempre il mio campo di azione. Il giorno seguente, allorché la campanella della ricreazione trillò, lei mi fece cenno di restare al mio posto. E solo dopo che l'intero gruppo, fra urla e gomitate, raggiunse l'uscita, mi disse di recarmi alla cattedra portando le matite colorate. Benché un po' sorpreso, ubbidì senza fiatare. Giunto da lei, estrasse dalla sua borsa una scatola bianca di sigarette, l'aprì e vi sistemò i miei pastelli, dicendomi: così la prossima volta farai meno fatica a trovarli. Non assomigliava per nulla alla confezione originaria, in cui si vedeva un giovane giotto che, osservato dal maestro Cimabue, disegnava su una grossa pietra il ritratto di una pecora. Ma quella scatola di sigarette foderata con carta argentata a me parve mille volte più bella. Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Questa è la domanda che si fa Gianni Rodari nell'introduzione al suo libro Degli errori. Sarebbe bello, continua lui, se questa frase fosse incisa sopra gli ingressi di tutte le scuole, proprio come nelle aule di tribunale si legge «la legge è uguale per tutti». Gli errori sono necessari, utili come il pane, e spesso sono anche belli, per esempio la Torre di Pisa, dice. Per una volta un libro per ragazzi lo dedico ai padri, dice Rodari, alle madri e specialmente ai maestri di scuola, a quelli insomma che hanno la responsabilità di correggere senza sbagliare i più piccoli e innocui errori del nostro pianeta. Appassionare i bambini a quello che fanno è forse il compito più importante della scuola, ma non è per forza un compito difficile da realizzare. Anche un pacchetto di sigarette svuotato, inserito nel giusto contesto, racconta un'attenzione e una passione per quello che si sta facendo e un ascolto di chi si ha di fronte. Forse è per questi particolari che più spesso ci ricordiamo i nomi delle maestre elementari che non quelli dei prof del liceo. Alla scuola elementare di Attu, un piccolo villaggio isolato in Groenlandia, studiavano non più di 30 ragazzi. Il loro rendimento era scadente, molto peggiore di quello dei loro coetanei in città. Più della media dei bambini abbandonavano gli studi e chi li finiva soffriva di un tale senso di inferiorità quando si confrontava con i ragazzi di città che non ce la faceva comunque. In questa situazione difficile, una decina d'anni fa, è arrivato un giovane maestro, Jimmy Himmler. Era stato nominato preside della scuola in quel posto lontano da tutto, in uno degli ambienti più inospitali del mondo. Il provveditore agli studi danese, quando gli ha offerto il posto, gli disse che se anche solo uno di quei ragazzi fosse riuscito a riscattarsi da quel posto, ne sarebbe valsa la pena. Jimmy accettò pensando che fosse un'idiozia. Lui andava adatto perché tutti i ragazzi avessero un futuro. Quando è arrivato, i colleghi del posto continuavano a ripetergli che non ce l'avrebbe fatta, che se ne sarebbe tornato in Danimarca entro breve. Jimmy ha tenuto duro, convinto che quello che stava facendo fosse importante. Subito si è accorto che i ragazzi arrivavano a scuola assonnati e senza aver fatto colazione. Allora ha incontrato i genitori e gli ha chiesto di dargli una mano, che mettessero a letto presto i loro figli e non li lasciassero abbandonati sotto il cielo di mezzanotte. Ha detto a tutti che il futuro della loro terra non sarebbe dipeso dalle materie prime o dal petrolio, ma dall'istruzione, che solo l'istruzione avrebbe permesso ai loro figli di prendere in mano la loro vita e di imparare un mestiere. Se non ci impegniamo tutti seriamente, non ci resta che tirare su i nostri ragazzi come attrazione per i turisti, disse, e sperare poi che i cinesi abbiano voglia di pagare per venire a vederli. Lo ripeteva di continuazione ai familiari. Quando un ragazzo non tornava in classe per più di qualche giorno, andava a prenderlo a casa. Quando finiva la lezione, chiedeva che fossero loro, i ragazzi, a insegnare qualcosa, accompagnandolo a pescare fra gli iceberg o alla caccia del bue muschiato. Li ha coinvolti e li ha appassionati alla loro terra. Ci è voluto del tempo, ma dopo 7 anni i risultati scolastici dei ragazzi di Attu sono risultati tra i migliori di tutta la Danimarca. La scuola è fatta dalle persone, non dai muri o dai libri, non dalle istituzioni, continua a ripetere quando racconta, e le persone hanno voglia di stare insieme. Quando è andato via, la situazione di tutto il villaggio era migliorata. Non ha solo dato un futuro ai ragazzi, ha creato una comunità. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Ma ha una faccia giovanissima Mario nella foto che ci ha mandato, che trovate al nostro sito. Voi siete qui Radio 24, sul sito ovviamente di radio24.it. Ha gli occhiali con la montatura un po' spessa, ha pochi capelli in testa si direbbe, e un sorriso molto molto aperto. 349-238-6666, ma soprattutto 800-24-0024. Cari Chavez scrive: sono stata insegnante di diritto di famiglia, alunni molto più grandi di me, ma sentivo una tale soddisfazione vedendo che loro si trasportavano con me in teoria, sia in teoria che nella prassi. È di origine spagnola, quindi scrive un po' italiano e un po' no. Liliana: quando facevo la prof mi piaceva spiegare la rivoluzione francese. 800-24-0024, andiamo da Andrea Roma e sentiamo che cosa insegnava e qual era la sua lezione preferita. Pronto Andrea? Ciao Matteo. Ciao, come stai? La mia... benissimo, grazie. Vai, dimmi, cosa insegnavi? La mia lezione preferita è stata una scoperta, perché dopo tanti anni che facevo seminari e lezioni di materie specialistiche, di economia e di marketing, 3-4 anni fa ho cominciato, d'accordo con alcuni amici, a fare delle sessioni di economia e di concorrenza per i bambini di 11 anni delle medie. E quindi... da 1, 2, 3, 5 volte alla fine la cosa ha preso l'abbrivio, ho cominciato a farlo piuttosto regolarmente con diverse scuole e sono state lezioni entusiasmanti, forse le migliori lezioni di economia e di concorrenza che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Andrea, mi dici come cominci una lezione di economia e concorrenza dei bambini? Di solito comincio a chiedergli che cos'è che sentono dire ai genitori e alla televisione quando dicono che si comincia a parlare di economia. E è divertente perché chiaramente i ragazzini fanno l'elenco di tutta la strampalata serie di materie che tipicamente seguono la parola economia, quindi si parla di lavoro, si parla di soldi, si parla di politica, si parla di finanza, e piano piano li porto a isolare il concetto della ricchezza, poi li faccio giocare facendo un po' di esperimenti per capire come funziona la concorrenza, vedendo che cosa cominciano a dire quando si... mette qualcuno a fare concorrenza con un'attività più redditizia o più economica, e devo dire si divertono molto. La parte più divertente, naturalmente più gratificante, sono le domande che ti fanno loro, immagino. L'illuminazione di questi ragazzini. Immagino. La parte un po' più triste, un po' più commovente è che ogni tanto, una volta su tre, una volta su quattro, gli amici, i professori o i presidi con cui vengo in contatto sono un po' riluttanti perché non sanno come chiedermelo, perché pensano che io lo faccia per soldi e mi devono dire che non hanno neanche una lira per pagare. Però una lezione nulla. Di economia subito, ho imparato, e di concorrenza. Ho imparato che ci devo chiarire subito che è gratis, che è gratuito. Altrimenti... Andrea, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao, ciao, presto, lavoro. Grazie anche a te. Andiamo a Varese, andiamo da Debora. Pronto, Debora? Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Mi è venuta la voce da Debora da Varese, improvviso. Prima parlavo con Andrea, ero, ehi, grande Andrea, e poi, ciao, Debora. che cosa insegni, Debora? E io insegno yoga. Oh, yoga, quindi grandi allungamenti. Grande allungamento. Mi sento già legato come un tronco parlando con te, ma nel senso che so di esserlo e quindi ho già i sensi di colpa. Dimmi qual è la tua lezione. C'è speranza per tutti, eh. Come, scusami? C'è speranza per tutti. Eh sì, certo, dicono tutti così. Io non mi tocco le punte dei piedi da credo da quando ho 14 anni, quindi puoi immaginarti. Dimmi qual è la tua lezione di yoga preferita. Beh, la lezione preferita è lo yoga della risata. Che conosco. In realtà non è una cosa che porto normalmente durante le lezioni, okay. Questo è una serata dedicata ed è una tecnica che ha inventato un medico indiano. Guarda, lo so perché, sì. Ho fatto una chiacchierata con una insegnante di yoga della risata milanese, quindi un po' so, però me la spieghi meglio, perché la dico male. La teoria è che invece che ridere per qualcosa, tu induci la risata e il tuo corpo sta meglio, giusto? Sì, allora diciamo che si inizia a ridere con una risata forzata, okay. Quindi non si raccontano delle barzellette, okay. O insomma cose che cioè, sono tipo... veramente esatto, solo che poi questa risata, okay. Diventa vera. Ok, e quella roba lì vera... ti fa stare meglio in teoria. Debora, esatto. Devo salutarti perché devo prendere un'altra telefonata, ma viva lo yoga della risata. Sì, grazie. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Andiamo da Ivano, pronto Ivano? Pronto, ciao. Ciao, senti, guarda, ho solo 30 secondi, però volevo sentire, sì, la tua storia. Tu eri maestro, sì, di matematica. No, io sono maestro elementare, ma sono una ventina d'anni che insegno solo matematica alle elementari. Ok, e c'hai degli uccellini dietro di te, tra l'altro, Ivano? Sì, sono in un prato adesso. Benissimo, stai preparando la lezione di domani? La preparo anche nel prato, perché sto raccogliendo del materiale, perché oltre a fare matematica faccio anche scienze. Di dove sei esattamente, Ivano? De Padova? Di Vittorio Veneto. Di Vittorio Veneto, scusami. Intanto galline, dietro di te è uno zoo praticamente. Sì. Ivano, esatto. Mi dici qual è la tua lezione proprio che godi tantissimo quando la fai? Io provo un piacere immenso quando faccio i numeri primi in quinta elementare. I numeri primi. Mi dici cosa sono in due parole i numeri primi? I numeri primi sono i numeri, quelli più sfortunati, mi fanno molta tenerezza perché sono divisibili solo per uno e per se stessi. Guarda, già viene già una malinconia. Sì, ma ai ragazzini piace tanto e piace, si divertono a cercarli, a trovarli, e forse è la lezione che mi riesce meglio perché tutti si innamorano dei numeri primi. Ivano, devo salutarti, ma ti prego, mandami una storia sui numeri primi. Voi siete qui, @radio24.it. Lo prendo come, grazie, una promessa. Ciao, grazie. Ciao. Io vorrei essere veramente in quel prato con Ivano. Vorrei capire cosa stava facendo. Stava mangiando, si stava preparando la lezione sui numeri primi. Gianluca, insegno italiano agli stranieri che vengono da qui, vengono nello stivale. Mi diverto tantissimo a spiegare la coniugazione dei verbi, che è una delle cose più difficili della nostra lingua, e le loro facce perplesse. Sono molto godibili. Grazie a tutti, grazie a Mauro Pescio, grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Mario. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, io sono Chiara, abito a Londra. La storia di domani è la mia e parla del mio anno in Canada quando avevo 17 anni. Questa è la mia storia ed io sono qui.